storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Un saluto affettuosissimo come ogni domenica da parte di Gesi e di Antonio. Oh, caro Antonio, stasera abbiamo un ospite illustre che poi presenteremo. Prima la parola a te. Grazie. Allora, benvenute le amiche e gli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte, suggerimenti e quant'altro, il numero di telefono è il 346 23 20 033. Esiste naturalmente la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri interventi. Bene, allora, prima di presentarvi l'ospite, presentiamo la prima canzone in programma. E siccome l'ospite parlerà di Padova, la prima canzone in programma è dedicata a Padova, cioè O Vecchia Padova, cantata da Marcato. Sta lontan tanti anni e so torna per rivederte e me vien voglia de piangere trovandote cambia. Ovecia Padova, tutta poesia. Ovecia Padova, dove si tosta, o vecchia Padova, che malinconia trovarte tanto cambia, o vecchia Padova. Strade, paesi e quartieri te fa più bea, ma credeme, tra filovie e semafori un'altra anima te ghe. O vecchia Padova, tutta poesia. O vecchia Padova, dove si tosta. O vecchia Padova, che malinconia trovarte tanto cambia. O vecchia Padova. Eccoci di nuovo in studio e, come annunciato prima, vi presento il nostro ospite di stasera, che è il signor Lucio Favaron. Lucio Favaron Elfe, conosciuto anche come l'ultimo stradiotto di Venezia o il bardo del Veneto. Benissimo, allora buonasera, buonasera Lucio. Buonasera a voi. E grazie, amici, di aver accettato di partecipare a questa trasmissione. Venire a Treviso per me è sempre un piacere, anche perché per un quarto il mio sangue è trevigiano. Bene, ma quindi, poi so che tu sei un esperto anche della storia, di tante cose. Beh, insomma, mi diletto, insomma, a me piace la poesia e quindi sono molto grato agli amici del SIL, amici della poesia, appunto, di avermi adottato nel loro grembo, diciamo così, insomma. Grande amico era Andrea Cason, ad esempio, c'è la Bruna Brazzalotto, cioè sono come Bruna Brazzalotto, come una sorella per me. E poi c'erano tanti altri qua, gente di Treviso, anche molto nota che io mi onoro di aver conosciuto e di aver avuto come amici, insomma. Ma ti senti un po' trevigiano? Beh, insomma, io sono veneto patocco, questo qua, perché sono nato a Padova per un giorno e dopo il giorno successivo ero già nel Cadore. Per la mia famiglia, purtroppo, io sono nato quando la mia casa andava a fuoco perché i cari alleati riversavano dei fiorellini esplosivi dove io stavo nascendo, insomma. Ho capito. Allora, questa sera ci parlerai un po' della storia di Padova, le origini di Padova. Sì, io non sono uno storico, però io mi diletto di storia, io insomma ero più matematico, diciamo, ecco, che ho fatto tante cose. E fra le altre anche questo. Beh, insomma, quello che mi onoro di più è di aver appunto onorato il quarto comandamento, perché ho dedicato 10 anni intensi della mia vita per assistere i genitori, in quali una malata di Alzheimer e l'altro per ischemia femorale e cerebrale, in più avevo anche una zia a carico. Però tutto questo, se non avessi avuto... Scusate, se non avessi avuto mia moglie e mia figlia accanto non ce l'avrei fatta. Certo. Un supporto fondamentale, certo. 10 anni fuori dal mondo, così l'ho definito, cioè un ritiro sociale, come l'hanno definito gli psicologi, insomma. Un'avventura vera? No, diciamo un'avventura, una tragica commedia, diciamo, insomma. Comunque, una tragica parentesi che è durata abbastanza, insomma. Sì, i miei genitori sono stati esponenti della storia, cioè la famiglia di mia madre soprattutto ha subito delle vicissitudini inenarrabili, quindi mia madre è stata al muro anche per essere fucilata, tanto per dire, insomma. Mamma è stata mia. Salvata all'ultimo momento. Che brutti ricordi. Beh, sì. Allora, prima che tu incominci ad addentrarti nella storia di Padova, ci ascoltiamo un'altra canzone, e questa canzone è cantata da Ornella Vanoni, intitolata Bello Amore. Bello, bello amore, amore bello che nessuno può negare. Ti vogliamo eterno, ti imploriamo in ginocchio di restare. Non andare via, che ci fai morire. Bello, bello amore, amore bello da volere. Da sognare come un paradiso senza pace, scorri nelle vene, dolce malattia che volersi bene. Vita, grazie a questa vita. Oh, e ritorniamo in studio con il nostro graditissimo ospite che ci parlerà di Padova e naturalmente delle tradizioni padovane. Via. Allora, l'origine del nome Padova. Si possono formulare tre ipotesi. La più antica ne fa derivare il nome dalla palude denominata Patina. La più accreditata suppone che dalla vicinanza del fiume Po Padus, per gli etruschi latini, mentre per i greci il Po era chiamato Eridano, la città abbia preso il nome, quindi Padua. L'ultima ipotesi, degli studiosi più recenti, nega la derivazione onomastica dal Po e sostiene che entrambi i nomi, cioè Po e Padova, derivino da un'origine comune, definita dalla radice pad, a cui si unisce l'idea dell'acqua ad indicare che la città è attraversata da corsi d'acqua. In epoca preistorica la pianura padana era sommersa dall'acqua ed assomigliava ad un vasto golfo marino che giungeva a lambire le Alpi occidentali. Con il trascorrere dei secoli, il sollevamento della crosta terrestre e l'ammassamento di sedimenti causarono l'emergere di vulcani sottomarini, che si trasformarono successivamente in isole boscose, che prenderanno il nome di colli iberici e colli euganei, popolarmente, dialettalmente, chiamati monti. Verso la fine del periodo neolitico, pressappoco dal 9-8 millennio avanti Cristo, quando iniziò l'uso del rame, cominciarono a popolarsi le aree emerse. Le popolazioni che si stanziarono nella regione, poi chiamata Euganea, probabilmente provenivano dall'arco alpino. I pochi ritrovamenti archeologici ci informano che queste popolazioni abitavano in agglomerati di capanne a forma circolare, usavano utensili e attrezzi di selce. La selce è una pietra compatta che, scheggiata, forniva affilati strumenti di lavoro e per la caccia, coltelli, punte di lancia, freccia, raschiatoi, asce. Intorno al 9-8 secolo avanti Cristo, un nuovo popolo si insedia nella zona, proveniente forse dalla Polonia meridionale e più probabilmente dal bacino della Sava, fiume che solca la Slovenia, la Croazia, la Slavonia e affluisce al Danubio presso Belgrado. È il popolo dei Veneti. Accanto a questa ipotesi vi è una fonte letteraria classica che vuole i Veneti giunti per mare dall'Asia Minore. Lo storico patavino Tito Livio narra che i Veneti, alleati dei Troiani e rimasti senza patria dopo la caduta di Troia, scelsero quale loro condottiero Antenore. Costui li guidò attraverso il mare Adriatico ad una terra, dove la pianura si apre al mare, dal quale è separata da lidi sabbiosi. Scacciati o assorbiti gli Euganei, i nuovi venuti vi si insediarono. Nacque così la leggenda di Antenore, mitico eroe troiano fondatore di Padova. Comunque sia, dopo la guerra di Troia si verificano nel bacino mediterraneo e dai Balcani al Danubio ampie migrazioni che costituirono i nuclei di diverse etnie che abitarono la penisola italiana prima dell'espansione dei Romani. Chiedo scusa, professore. Eneti, è possibile che ci sia la radice tipo Enos, la radice, diciamo, una comunanza radice, tra Veneti e la vino? La radice enologica. Enologica, esatto. Io volevo fare un'altra domanda. In che anno, sì, è stata fondata Padova, mi pare, intorno al 1000? Beh, diciamo qui le cose non sono molto chiare, effettivamente mancano fonti, quindi si dice 2500 anni prima di Cristo. Sì, avanti Cristo, sì, vedo. Insomma, che c'è... Cioè due millenni e mezzo, insomma, prima di Cristo, insomma, si intende. Quindi Padova è una città d'acqua? Beh, naturalmente tutte le città di un tempo si formarono dove c'era l'acqua, perché l'acqua era l'elemento insostituibile, l'elemento per la vita. Ad esempio, Roma è un termine etrusco, perché Rom in etrusco significa acqua. Ah, ho capito. Volevo chiedere, il Po bagna... Beh, non bagna Padova il Po, è in provincia di Padova, no? No, ma formava vasti acquitrini, poi con... Questi corsi naturalmente non erano irregimentati, mancavano gli argini, le arginature, e quindi le acque dell'Adige e del Po si mescolavano frequentemente. Ho capito. Quindi, vabbè, vediamo anche Polesine. Quindi. Sì, esatto. Addirittura sembra che è Pola, Pola perché fosse addirittura bagnata, bagnata dal Po. Dal Po. Di fatti i non si chiamano Polesini, si chiamano Polesani. Polesani. Pola, Polesani. Dall'Italia dismentigata, città sì. Finita nel nostro oblio, ti vive una vita rovesciata per la maledizione di Dio. Io che ho sangue istroveneto, insomma, sento molto la voce cose, delle radici, insomma. Diciamo. Insomma, i miei avi insomma, provenivano da là, insomma, c'era mio nonno materno, il cui nonno suo morì a Forte Marghera a difendere Venezia, insomma, quindi mio nonno, papà di mia mamma, è morto nel 1947, il 12 maggio, e proprio 150 anni dopo la caduta di Venezia. Le sue ultime parole furono: adesso vago nel Veneto, de là del mar. Che parole. Straordinario. Ok. Sì. Dunque. Allora, secondo alcuni studiosi, il territorio in cui attualmente sorge la città di Padova era un'ampia isola al centro della biforcazione del fiume Brenta, che anticamente era chiamato Medoacus o Medoacus. Medoacus, esatto. Qua dipende solo dagli accenti. Sì, no, nel senso di... Secondo studi più recenti condotti con la tecnica dell'aerofotogrammetria, cioè il rilevamento fotografico del terreno mediante velivoli dotati di apparecchi speciali, è accettata la teoria che Padova sia sorta nell'ansa prima della biforcazione del Brenta, e cioè fra questo e il Retenus, cioè Oretenus, cioè il Bacchiglione, che correva più a sud, prima cioè che il Medoacus, l'antico Brenta, dopo un incerto percorso, mutevole ad ogni piena, difatti ancora oggi si dice una brentana. Una brentana. Dunque, queste piene determinarono il diverso andamento dei meandri. E questo Medoacus si divise in due rami, Medoacus Maior e Medoacus Minor, che andavano a sfociare in laguna e potevano anche interrarla, insomma, allora. Comunque, insomma, si formavano sempre questi cordoni sabbiosi e c'è questi lidi, eccetera. Il sorgere di insediamenti stabili fu favorita dalla disponibilità appunto di acqua per usi agricoli e dalla possibilità di utilizzare il corso del fiume come via navigabile, sia verso l'interno che verso le vicine lagune. Le tracce del più antico insediamento umano sono state trovate nel 1962 a 6 metri di profondità nella centralissima via 8 febbraio, proprio di fronte all'università. Resti di 3 capanne in legno disposti in linea sono stati scoperti vicino anche alla sede centrale di un noto istituto di credito nel centro storico di Padova, quindi Banca Antoniana. Gli studiosi ritengono che queste capanne presentassero un'apertura a sud e che avessero una staccionata di protezione a nord. I resti dovrebbero risalire all'undicesimo secolo avanti Cristo. Col passare dei secoli i nuclei abitati aumentarono, sorgendo soprattutto oltre l'ansa del fiume Brenta. Ancora una volta il lavoro degli archeologi ci permette di definire la tipologia delle abitazioni e degli strumenti usati dai Veneti. Le capanne presentano una pianta rettangolare a due stanze con pavimentazione in argilla, come risulta dagli scavi di Piazza Insurrezione o Piazza Spalato, come talvolta chiamate, ricordo. Piazza Spalato non è una cittadina, sì. Dove è appunto. Il ricordo della città dalmata perduta. Se non ricordi, sì, Spalato. Scusate, ma ogni tanto, siccome. Certamente, no, ma questo è il bello naturalmente. Il mio cuore è da quell'altra parte del mare. Certamente. Ecco. E allora ti commuovi. Mi commuovo, anche perché sono stato partecipe di situazioni veramente tragiche durante la mia infanzia. Che ricordi che gli occhi di un bambino non possono. Allora ci fermiamo un momentino e ci ascoltiamo un'altra canzone. Intitolata Il mercante di stelle, che è cantata da Renato Zero. Se Se vuoi credere in me, devo dirti che io sono solo un mercante di stelle, con le oneste bugie e la finta realtà di un ragazzo che mai sarà grande. Sono fatto così, è più forte di me, perché sono un mercante di stelle. Certe astuzie oramai non aiutano più, e mi perdo così nel disagio che vivi anche tu. Per questo sono qui, in questo Luna Park, con tutti i sogni tuoi che non ricordi più, però ci sei anche tu. E adesso che lo sai, rimani finché vuoi, perché io non sarò, perché non sarò mai mercante di realtà. Questa ingenua allegria ci fa bene, però non è l'unica cosa importante. Certe volte è così, e non è colpa tua se la vita confonde le carte. Resta quello che sei, non arrenderti mai, che nessuno è mercante di stelle. Siamo uguali, lo sai, ma lo faccio per te, per poi credere anch'io che ogni male guarisca da sé. Tu non restare lì, in quella galleria che non ti vedo più. Imbroglialo anche tu, quel buio che non ha la nostra fantasia, la nostra libertà. Non rimanere nel vuoto che non hai, perché non sei così. E dirti una bugia non mi spaventa, sai, ma mi spaventi tu se ti rassegnerai con la vigliaccheria di chi non ce la fa, di chi si ferma lì lasciandosi a metà, lasciandosi così, lasciandomi così mercante di realtà. Eccoci di nuovo in studio e diamo la parola ancora al nostro Lucio Favaron. Dunque, allora, come dicevo, queste capanne, appunto, trovate in, questi resti di capanne trovate in Piazza Insurrezione o Piazza Spalato, erano quasi interamente costruite in legno, e avevano, però avevano uno zoccolo in pietra. Qui ogni nucleo familiare costruiva i propri utensili ad uso domestico, i piatti e le spatole erano di legno. Dalle corna di cervo e dalle ossa degli animali si ricavavano punte di picche, zappette, aghi e rasoi. Una vasta produzione artistica è documentata dai ritrovamenti archeologici: vasellame, stipi votivi, stele funerarie e bronzetti. Di particolare interesse sono le situle, cioè delle secchie di bronzo comuni all'area nordica prealpina. La più bella di queste situle è la situla Benvenuti, rinvenuta in una necropoli di Este. Praticamente l'unica testimonianza descrittiva degli usi e costumi delle genti paleovenete. In tre fasce decorate illustra scene di vita contadina, scambi e commerci, e inoltre presenta figurazioni di attività marziali. Dovevano essere queste le principali attività intorno alle quali si svolgeva la vita degli abitanti dei primi Pagi, cioè dal latino Pagus, distretto campagnolo villaggio, e che individuavano le caste in cui era strutturata la società. È interessante rilevare come la lavorazione del bronzo fosse assai sviluppata nell'area veneta. Qui nasce l'uso del bronzetto votivo, raffigurante guerrieri, cavalli e figure femminili, forse sacerdotesse di Reizia, una delle più note divinità paleovenete. Le necropoli, con i loro corredi e le stele funerarie, rappresentanti generalmente riti funebri, sono un'altra ricca fonte che testimonia lo sviluppo e la struttura degli insediamenti preromani e la qualità della vita che in essi si svolgeva. Un popolo dedito all'agricoltura, alla caccia, alla pesca, alla pastorizia, all'allevamento dei cavalli e, perché no, anche alla guerra. Prima della comparsa della dracma benetica, moneta in bronzo raffigurante la testa di divinità su un verso e sull'altro una testa di belva, cioè del III secolo a.C., i paleoveneti usavano per commerciare delle schegge di bronzo detta Aes Rude. Di fatto, come attestano gli storici, la nascita della moneta determinò il passaggio dal baratto ad una prima forma di economia localizzata, che fa presupporre, sul piano sociale, una primitiva forma di governo centrale dei pagi, cioè dei villaggi. Nell'antichità il territorio patavino rappresentava un importante nodo stradale. Infatti numerose vie vi nascevano e si diramavano in tutte le direzioni, soprattutto verso le vicine località di Altinum, Plebs Sacci, Piove di Sacco, Adria, Ateste e Bassano. Prima di passare all'anno di fondazione del Pago, cioè del villaggio, Padova e delle sue vicende storiche, diamo ancora uno sguardo all'uomo paleoveneto. Un mantello di lana, gettato sopra le spalle, a coprire una rozza tunica e un paio di stivali, specie di stivali, con risvolto lavorato, costituivano le vesti tradizionali degli uomini. Un cappello dalle larghe tese, contro la pioggia e il sole, ne completava l'abbigliamento. Le donne invece usavano una tunica con maniche lunghe o corte, che cadeva svasata con pieghe ed era tenuta stretta sui fianchi da una cintura in tessuto o in cuoio, e un lungo scialle copriva le spalle. Moltissimi sono i reperti di cui oggi disponiamo: le fibule, collane, braccialetti, pendagli in ambra, corallo, ossa lavorate, pasta vitrea, perle in fusione ricoperte da una lamina d'oro. La fattura e il tipo di lavorazione dei monili ritrovati fa supporre che siano state notevoli le influenze culturali e artistiche delle popolazioni celtiche e della già fiorentissima civiltà etrusca. E adesso arriviamo al punto cruciale proprio della nascita di Padova. Padova nasce probabilmente da una coalizione di tutte le comunità del territorio patavino per fronteggiare l'invasione da parte del re di Sparta, Cleonimo. La vicenda è narrata dallo storico padovano Tito Livio nel decimo libro delle Storie. Scrive Livio che Cleonimo, o Cleonimo, dopo aver combattuto a fianco dei Tarantini contro Roma, fu sospinto dai venti adriatici con la sua flotta nell'Alto Adriatico. In prossimità degli attuali lidi di Chioggia, il re di Sparta fu informato dai suoi esploratori che sulla foce di un fiume, dietro la laguna, esistevano villaggi e campagne ben coltivate. Il fiume era il Brenta, ed è certo che gli spartani ne risalirono il corso, giungendo a circa 25 km da Padova. Dopo aver saccheggiato tre villaggi, usati dai padovani come scali fluviali, gli spartani si spinsero nell'entroterra, lasciando un manipolo a difesa delle navi. Gli abitanti di Padova, nel frattempo, avevano approntato un piano difensivo. Suddivisi in due squadre, attaccarono la guarnigione spartana che difendeva le navi e la sconfissero facilmente. Contemporaneamente impegnarono il grosso degli spartani in una vittoriosa battaglia nella zona di Campagna Lupia. Nel frattempo, gran parte dei battelli di Cleonimo erano riusciti a disimpegnarsi, tentando di raggiungere il mare aperto, ma i patavini, usando imbarcazioni dal fondo piatto, facili da manovrare sui bassi fondali delle lagune, assalirono le biremi spartane, distruggendole quasi totalmente. Si suppone che Cleonimo sia riuscito a scamparla. Per celebrare la vittoria, i rostri delle biremi spartane furono presi come trofeo e trasportati nel tempio di Giunone Rezia, ed ogni anno, in coincidenza con l'anniversario della battaglia, furono organizzate a Padova delle gare nautiche, le cosiddette naumachie, cioè dal greco naus, sì, nave, sì, e naumachos, combattente di mare. Sul piano storico, allora, gli studiosi ritengono che un'azione così ben congegnata e diretta fosse possibile solo con potere politico già attivo e funzionante, che si ritiene essere stato un regime repubblicano collegiale, e quindi effettivamente storicamente al 302 a.C. che si fa risalire alla nascita di Padova. Ecco, posso interloquire sì. Due cose. La barca dal fondo piatto mi pare che venisse usata anche, è stata usata storicamente fino a poco tempo fa anche sul Sile e sugli altri fiumi, o sbaglio? Si chiama pantana o battana, esattamente. E poi l'abbigliamento maschile e mascherette anche veneziane. Esatto. Sì. L'abbigliamento maschile di questa specie di tabarro, forse, che non fosse l'antesignano del tabarro. Potrebbe essere, quindi insomma, gettato sulle spalle, proprio tipico. È un modo di vestire strano anche delle donne, poi, fra l'altro. Beh, ad esempio in veneziano si chiama Zimarra. Ah, vecchia Zimarra. Zimarra, esattamente. Sì, Zimarra. Ci fermiamo un momentino per ascoltarci un'altra sì, canzone. Poi passiamo al periodo romano. Sì. Allora, la quarta canzone in programma e abbiamo Giada Nannini con I Maschi. L'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metri confondono le linee di miro nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte quasi carezza della notte quasi amor. Tu sotto la giacca cosa avrai di più quando fa sera? Il cuore si scatena, mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amor. Studio col nostro Lucio e che continuerà a parlarci della storia di Padova. Sì. Padova durante il periodo romano. Dunque, le vicende storiche successive ci portano ad analizzare i rapporti fra Padova Patavium e la nascente egemonia politica e militare di Roma. Gli ultimi secoli prima della nascita di Cristo vedono Roma e la città Veneto in stretto contatto sia sul piano economico che su quello politico. Lo storico Polibio, schiavo greco, informa che 20.000 veneti sbarrarono la strada nel 225 a.C. ai Galli in ritirata, rendendone così più pesante la sconfitta. Altre fonti indicano l'insistenza dei romani per mantenere un buon rapporto di collaborazione coi veneti durante il lungo periodo delle guerre puniche, con il chiaro intento da parte romana di creare una specie di difesa alleata al nord contro le calate dei Galli. Un interesse è quello romano per il confine settentrionale che si manifesta in varie occasioni e che trova la massima conferma con il progressivo insediamento nel territorio veneto di colonie, avviando di fatti un processo di romanizzazione dell'area veneta. Difatti i legionari romani al termine della loro ferma ricevevano l'onesta missio, cioè ricevevano la buona uscita e quindi potevano aggiudicarsi un pezzo di terreno che dopo appunto si svilupperà nel famoso graticolato romano di Campo San Piero, i vari campi eccetera. Tanto fu accorta la politica romana che furono i patavini stessi a chiedere nel 175 a.C. l'intervento di Roma per dirimere alcune controversie interne. Così Padova, da federata, cioè alleata, si trasformò in popolo amico e protetto, cioè soci di Roma. Sotto la dominazione, dominazione romana, furono realizzate opere di bonifica e lavori stradali che i patavini, le cui attività erano essenzialmente legate al commercio con gli altri popoli padani, accolsero favorevolmente. La necessità di collegamenti efficienti tra Roma, Patavium, Vicenza, cioè Vicenza, Altinum, Aquileia, migliorò e riconfermò sostanzialmente l'assetto viario veneto. Entro le grandi arterie di comunicazione che intersecavano a nord la via Postumia, l'agro era ordinato in centuriazioni, cioè un reticolo di strade che limitavano porzioni quadrate di territorio di 710 metri di lato, entro le quali venivano ripartiti i campi, orientate secondo gli assi delle grandi strade. Notevoli per la loro persistenza nella struttura attuale del territorio padovano sono le centuriazioni di Cittadella e Campo San Piero. La via Emilia, terminata nel 175 a.C., proveniva da Bononia e Bologna, cioè Gallia Cisalpina, e passava per Ateste e Monselice, seguendo il tracciato che collegava anticamente i nuclei abitati sorti nell'ansa del Brenta con questi due importanti centri. Nell'immettersi in città a Padova, il fiume seguiva il percorso tuttora esistente che da via Vittorio Emanuele II prosegue per via Umberto I, via Roma, via 8 febbraio, raggiungendo il centro cittadino fra Ponte San Lorenzo e Ponte Altinate. La riconferma degli antichi tracciati si ha anche per tutte le altre vie principali di collegamento, così la via Annia, la via Emilia Gallica per Vicenza e Verona, la via Aurelia per Asolo, la via Popiglia per Adria e la via Altinate per Altinum e Concordia Sagittaria. I percorsi interni all'ansa del Brenta, ripresi sostanzialmente anche in epoca medievale, fa supporre che la Padova romana non abbia mai avuto un piano urbanistico regolare, costruito sugli assi perpendicolari del Cardo e del Decumano. Cioè il Cardo era una linea tracciata da sud a nord, il Decumano una linea tracciata da est ad ovest, in base alle quali si formavano anche gli accampamenti romani. Ma questa ristrutturazione romana sembra che abbia assorbito interamente l'assetto viario paleo-veneto, concentrando l'attenzione sulle grandi opere pubbliche, il foro, la basilica, il porto fluviale, il teatro, l'arena, i cui resti testimoniano della monumentalità della Padova romana. L'esplodere della guerra sociale a Roma nel 90 a.C., alla quale Patavium non partecipa, ed il susseguirsi delle guerre civili, La basilica di quelle del Santo, parla della basilica no, del no. Santo. La basilica non era altro che il tribunale. Ah, la chiamavano basilica. Sì, basilica. Deriva anche da Basileus, cioè quindi da re, da governante, cioè da dove c'era il governo, sì, il governo della città. Ho capito. Dunque, l'esplode la guerra sociale, abbiamo detto, fra poi Cesare, Pompeo, insomma, tutti quanti, Scilla, cioè i grossi dittatori, diciamo così, romani. Dunque, questo susseguirsi di guerre civili frenarono il processo di espansione della città veneta e determinò anche il definitivo passaggio di Padova sotto il protettorato romano, con la concessione da parte di Giulio Cesare della Civitas, cioè della cittadinanza romana, ai Traspadani nel 49 a.C., proprio mentre stava per essere assassinato. Dopo il periodo delle guerre civili si aprì il prospero periodo di Augusto e con esso Patavium vide rifiorire i suoi commerci e il suo ruolo preminente nel sistema di viabilità stradale e fluviale per tutto il nord Italia. Se i commerci rappresentarono un ottimo elemento di sviluppo, non vanno dimenticate le altre risorse della città. I padovani erano abili allevatori di cavalli e di greggi, dalle quali ottenevano ottime lane, lodate anche dal poeta Giovenale. Lo storico Strabone, contemporaneo dell'imperatore Augusto, testimoniò questo benessere per ricchezza. Padova era pari alla Cadice dell'Ispania e seconda solo a Roma. L'affermazione è avvalorata dai risultati fatti nel censimento, fatto nel primo secolo d.C. Erano ben 500 i cittadini di ceto superiore del censo equestre. Dunque bisogna riconoscere che effettivamente avrebbero anche voluto denunciare più di quello che avevano, non di sottrarre come adesso. In controtendenza, diciamo. Sì. Adesso invece se potessero non denunciare niente. Ecco, nella costituzione del municipium patavinum, a questo ceto appartenevano i decuriones, che comportavano l'ordo, cioè una sorta di consiglio del comune che reggeva l'amministrazione della città. Ai decuriones spettava l'elezione dei magistrati e dei sacerdoti, quando l'assemblea popolare degli uomini liberi ebbe perso potere e valore. I magistrati restavano in carica un anno, avevano compiti propositivi e di controllo sulle finanze e sugli atti amministrativi nei vari settori della vita cittadina. Ecco, non potevano stare di più, ecco, perché colpisce la durata dell'incarico, in effetti. C'era anche allora il pericolo del peculato, della concussione, sì. Quindi un anno non puoi fare tante robe. Ma era, insomma, giusto così. Ecco, allora questi magistrati avevano competenze, insomma, in politica edilizia, politica finanziaria, dalle operazioni commerciali al culto e all'allestimento dei giochi pubblici. L'amministrazione dell'erario, cioè il patrimonio pubblico, era affidato ai curatores erari, curatori dell'erario, che riscuotevano le imposte derivanti da affitti di terreni di proprietà dello Stato città, Stato, insomma, si fa così dire, proprietà del comune, diciamo, e dai pedaggi e dai vari dazi. Accanto ai magistrati erano presenti i prefetti, che amministravano la giustizia su delega, ecco qui, bisogna stare attenti, del pretor romano, il pretore romano. Non sono chiari comunque i limiti delle loro funzioni, né se essi svolgessero i loro compiti nel contesto delle normali magistrature. Intanto, il lento e pacifico assorbimento nell'ambito della romanità, della cultura paleoveneta e preromana, fa supporre che accanto ai culti e ai sacerdoti ufficiali previsti dagli statuti municipali, qui erano preposti i pontefici e gli auguri, sopravvissero i più... Auguri. Cosa sarebbero? Dunque, auguri è un termine etrusco, no? E che coloro che divinavano il futuro. Beh, è una cosa straordinariamente interessante, sì, devo dire. Sì, vero? Qua si spazia, insomma, si va. Ad esempio, il termine omen, cioè significato, nomen est omen, cioè nel nome che ti viene dato, l'atto della nascita, starà tutto quanto il significato della tua vita. Ho capito. Ci fermiamo un momentino ancora e ascoltiamo un'altra canzone che è intitolata... qui abbiamo una Milva alle prime armi e canta una bellissima, che secondo me è una delle più belle canzoni d'amore che ho mai sentito, ed è Vivrò. Vivrò. non è l'aria ed il sole che mi danno la vita, ma il tuo amore per me, la tua fede per me. Se ancora più azzurro il mio cielo è per te. Eccoci di nuovo in studio e col nostro Lucio Favarò che continua il suo racconto. Dunque, due furono le maggiori fonti di ricchezza in Padova durante l'epoca romana: il porto fluviale e l'artigianato. Non è dato di conoscere quale fosse in epoca preromana il sistema dei collegamenti fra le sponde del Brenta e se questi avvenissero a mezzo di traghetti o di ponti di legno. I Romani perciò dotarono la città di un notevole numero di ponti, la cui eccezionalità per forma e dimensione è riscontrata in alcuni di essi, come ad esempio quelli in prossimità del porto fluviale, dove sono ancora visibili i resti delle banchine di attracco, e ci consentono di determinare con esattezza la collocazione del porto di Padova, esteso per gran parte dell'ansa del Brenta. La vita del porto era segnata dall'arrivo delle navi onerarie, simili a grandi barconi, i burci, che facevano scalo nel tratto di fiume che si trovava tra Ponte Altinate e Ponte San Lorenzo, dove una volta all'anno si allestivano le naumachie a celebrazione della vittoria appunto sul re spartano Cleone. Naumachie, cosa vuol dire? Naumachie erano dei giochi fluviali. Ad esempio, veniva allagato un grande, ad esempio nel prato della valle, sì. E lì c'era appunto il teatro chiamato Zairo o Zairo, veniva allagato e allora ci mettevano alcune imbarcazioni e partivano al colpo di un suono di tromba e dovevano arrivare diciamo dall'altra parte. Era una specie di lago, insomma, fatta una specie di lago. E però erano consentiti anche colpi bassi, cioè un'imbarcazione poteva avvicinarsi, cioè urtare un'altra e spaccarli i remi e proseguire come ad esempio, come nella regata storica, sì, come sì. Avviene nella regata a Venezia, insomma, sì, sono sì, sempre sì. Dei gondolini. Ho capito. sono tutte tradizioni che dopo Padova, quando venne appunto distrutta dai barbari, e dopo trasmise a sua figlia, cioè Venezia. A Venezia, cioè, sì. Venezia si può considerare appunto figlia di Padova, emanazione di Padova, ma non solo, poi c'era Altino, cioè sono tutte le genti venete, e dopo con la calata dei barbari confluirono appunto nelle lagune e formarono questa città che allora ha preso il nome di Rivo Alto. Rivo Alto, primo nucleo, quindi insomma siamo tutti quanti, abbiamo tutti un'unica origine. Poi Venezia si espanderà nella decima regio, che era Venezia e Istria, cioè erano inscindibili, come quando Dante dice sì, come Apola, da là dove il Carnaro Italia chiude e i suoi termini bagna. E quindi purtroppo la storia recente ha voluto diversamente le cose andassero diverse, sarà forse volontà del Padre Eterno, chissà, per punire le ambizioni di certi governanti che hanno solo guardano soltanto il loro interesse immediato, quindi dunque dal porto partivano le strade e su queste si aprivano le botteghe, si affacciavano le case dei ricchi proprietari, terrieri e le più modeste abitazioni dei commercianti e degli artigiani. Le attività artigianali erano legate principalmente a due settori, cioè la storia non è soltanto una questione di date, eccetera, no, la storia certo. È questione di avvenimenti di cui i protagonisti sono anche la gente piccola, la gente minuta, sì, naturalmente sì. Con l'economia e tutto quello che va, perché chi fa andare avanti, Ischei, è sempre là, gira o rigira. Allora, le attività artigianali erano legate principalmente a due settori, quello laniero, con una produzione che comprendeva coperte per gli schiavi, ruvide e pesanti, tanto da essere utilizzate per lo spegnimento degli incendi, questa è una curiosità. Sì. Poi le pezze per vestiario e tappeti di varia foggia e finezza. Importantissima era anche l'industria dei laterizi, con mattoni, tegole e lucerne. I marchi impressi sugli oggetti indicavano che la produzione era concentrata nelle mani di un gruppo ristretto di famiglie che talvolta commissionavano parte della lavorazione a fabbriche gestite da societas di liberi lavoratori. Cioè delle corporazioni. Sì, sì. Si può dire. Già allora esistevano appunto associazioni di mestiere che avevano il compito di insegnare agli apprendisti le varie attività e di assicurare agli iscritti un funerale decoroso. A Padova è documentata la professione di medicus. Strumenti oculistici e chirurgici sono stati trovati in zona Mandria, dove appunto venne poi firmato l'armistizio tra l'Italia e l'impero austro-ungarico. La Mandria. Sì, la Villa Giusti. Come i romani, fedeli al motto panem et circenses, cioè pani e giochi, i padovani assistevano alle corse di cavalli, ai giochi ginnici di varia natura e alle già ricordate naumachie, questi giochi navali che a volte assumevano anche toni cruenti con assalti con le spade, con le lance, le frecce, quindi anche battaglie navali, insomma. Queste ultime sono descritte dettagliatamente, queste naumachie, dal poeta Virgilio. I vogatori portavano una corona di foglie di pioppo e il timoniere in piedi a poppa era adornato di monili d'oro e d'argento. Al suono di una tromba le imbarcazioni si lanciavano verso il traguardo e i regolamenti appunto ammettevano anche manovre losche tese a rovesciare le imbarcazioni avversarie. I vincitori ricevevano in premio corone d'alloro e un drappo finemente decorato. Virgilio non dice se ricevevano anche assi, cioè monete, cioè oro, argento, eccetera, non lo dice. Cittadini più raffinati e quindi più abbienti erano allietati da rappresentazioni tragiche o dalle commedie messe in scena nel teatro, ecco lo Zairo, che sorgeva nell'attuale Prato della Valle. Passiamo adesso, saltiamo un po', arriviamo tra i rapporti tra cristiani e barbari. Il lento cammino del cristianesimo trova la sua prima attestazione a Padova nei primi anni del 300 d.C., col processo e martirio di Santa Giustina, giovane patrizia patavina, e la predicazione di San Prosdocimo. E anche lui mi pare protettore di Padova, vero San Prosdocimo? Sì, è stato il primo protettore, sì, dopo sì. Sant'Antonio, sì, il sì. Fernando Portoghese, sì, lo ha scalzato, quindi molti lo ricordano più che il primo protettore, il santo protettore di Padova era San Prosdocimo, insomma. Quindi fino a quel momento mancano notizie certe, ma si può ragionevolmente supporre che in una città rigidamente conservatrice come Padova le credenze pagane resistessero lungamente al cristianesimo. Solo nel IV secolo d.C. sorgerà la prima basilica appena fuori, ecco, basilica cristiana, si intende, sì, appena fuori alle mura cittadine, e sarà dedicata alla santa martire Giustina. Parallelamente alla diffusione della nuova religione, entrarono in crisi le basi dell'impero romano. Le legiones non riuscirono più a reggere la spinta dei barbari e Padova fu toccata, però in modo non grave, da un primo saccheggio ad opera degli Unni di Attila nel 451 d.C. Padova resisterà poi per 12 anni all'assalto dei Longobardi, attestatesi così saldamente nella pianura padana da isolare praticamente la città dal resto del territorio. Ma alla fine, attaccata da Gilulfo, anche Padova cadde nel 602 sotto il dominio longobardo. Il clero e parte della popolazione trovarono rifugio nelle lagune. Dal saccheggio e dalla distruzione della città rimase indenne la sola basilica di Santa Giustina. Straordinario. Straordinario. E qui naturalmente la nostra trasmissione è in via di chiusura. Purtroppo qui si starebbe affascinati ad ascoltare per ore ed ore. Beh, ma io spero che il prossimo mese si possa proseguire con la storia. Certamente. Bisogna finire sempre quel che si è cominciato. Certamente. Ma in questo caso è una cosa... È una cosa molto interessante. Veramente straordinaria, eccezionale. E veramente dobbiamo ringraziare il nostro Lucio che ci ha dato questa opportunità. Ecco, perché allora noi salutiamo e ringraziamo il professor Favaron. Buonanotte. No, professore. Ecco, e ci deve promettere, se vuole, se può, che il prossimo mese tornerà fra noi. I miei avi veneziani, quando partivano per il Levante, dicevano: Deo giuvante, parto, ma non so se tornerò. Vabbè. Ma noi ci contiamo con l'aiuto di Dio, certamente. Dio giurante, insomma, speriamo. Insomma. Noi ci contiamo, benissimo, vero? Allora ringraziamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori e diciamo naturalmente buonanotte. Allora io ringrazio quell'ascoltatore di Venezia che ha mandato una mail e che è contento della trasmissione e che aveva paura che la trasmissione non si fosse la prima e l'ultima, invece le trasmissioni proseguiranno. Bene, allora salutando anche il regista Edi Daici, con Antonio e con Lucio, anch'io auguro a tutti una serena notte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.